solo di sport non sa niente di sport. In ottemperanza a questo principio, noi quando raccontiamo una storia sportiva non raccontiamo mai solo una storia sportiva, c'è sempre dietro qualcosa di molto più intenso. Non parliamo solo di uomini che hanno dedicato tutta la loro vita a un obiettivo, ma parliamo di tutto quello che c'è attorno. Spesso questo è più interessante, più intenso rispetto a un elenco di vittorie. Per quello ci sono Wikipedia, gli almanacchi del calcio, lì potete trovare tutti i numeri che volete. A noi oggi vogliamo raccontare la storia di un personaggio del calcio moderno, parlando non solo delle sue vittorie, che peraltro sono tantissime, ma anche e soprattutto di quello che lui e i suoi compagni di squadra hanno significato per il loro paese, un paese piccolo, relativamente giovane, ma con già una storia lunga e non sempre fortunata. Quelli che state sentendo non sono fuochi d'artificio, sono bombe. Nel 1991, all'inizio della guerra dei Balcani, ne cadono tra le 300 e le 400 al giorno sulle teste dei croati. Distruggono tutto. Gli uomini sono costretti a arruolarsi anche contro il loro volere per aiutare il loro paese in una guerra terribile, fratricida, che non conosce pietà. Stipe Modric è uno di questi uomini, lascia i suoi figli e la moglie sotto la protezione di nonno Luca, che è troppo anziano per essere di nuovo utile all'esercito. E il nonno deve provvedere alle necessità della famiglia in un momento così difficile. Una mattina esce a caccia, non sa che nei boschi sono nascosti alcuni soldati serbi alla ricerca di partigiani e di indipendentisti croati, e Luca non è nulla di tutto questo, è un uomo che sta cercando di portare qualcosa da mangiare a sua nuora e ai suoi tre nipotini. I soldati però lo vedono aggirarsi nella vegetazione con in braccio un fucile e fanno fuoco. Per Luca Modric non c'è scampo, muore lì sotto gli occhi del suo nipotino di 6 anni che lo stava accompagnando, e il nipotino si chiama come lui, Luca Modric. È nato il 9 settembre del 1985 a Zara, nella vecchia Jugoslavia. Lui è il protagonista della nostra storia di oggi. Nel 1991 scoppia la guerra nei Balcani, croati, bosniaci, serbi, popoli che avevano convissuto in un clima di calma apparente fino a poco prima, in questa convivenza pacifica sotto la cappa, diciamo, di Tito. All'improvviso si fanno la guerra tra di loro, ognuno difende la sua identità, e abbiamo lasciato il protagonista della nostra storia, il piccolo Luka Modric, al dicembre del 1991. I soldati serbi gli hanno appena ammazzato il nonno davanti agli occhi, hanno dato alle fiamme la casa dei Modric, che sono costretti a prendere le loro poche cose, a trasferirsi in città dove ci sono i rifugi per le famiglie e i profughi di guerra. Luca ha visto con i suoi stessi occhi come gli hanno ammazzato il nonno. Ogni giorno cadevano vicino alle nostre case tra le 300 e le 400 granate. Non era una situazione facile. La sua famiglia non ha avuto altra opzione che fuggire a Zara, per non fare tutti la stessa fine del nonno di Luca. Dovettero scappare attraverso boschi e montagne, a piedi. Joseph Bailo è un personaggio che avrà un ruolo molto importante in questa storia, e lui racconta così il lungo viaggio a piedi dei Modric attraverso le montagne e i boschi croati fino a raggiungere Zara. Zara è affacciata sull'Adriatico, è l'unica città ad avere un ospedale agibile. La famiglia di Luca trova rifugio in un albergo riconvertito a centro d'accoglienza, ma ogni giorno su Zara cadono centinaia di granate. Lo abbiamo raccontato anche nella puntata dedicata a Zlata Filipovic, vi ricordate, la bambina bosniaca. Beh, i bambini sono quelli che pagano il prezzo più alto, sono costretti a vivere nascosti, non possono andare a scuola, non possono giocare all'aperto perché tutto è pericoloso. E così Luca, come tanti altri bambini, cresce con l'unico gioco che gli è rimasto, quello a cui è più affezionato, un pallone dal quale non si separa mai. Gioca nei corridoi, in qualsiasi altro spazio dell'albergo. A distanza di anni, i dipendenti della struttura si ricordano ancora di lui, rompeva più finestre lui col pallone che i serbi con le bombe. D'altronde il calcio da quelle parti ha una storia lunghissima con radici lontanissime. Anni 70 dell'Ottocento, sul lungomare del magnifico porto di Zara, giocano a calcio alcuni marinai britannici, mentre in qualche slargo della più triste Fiume fanno lo stesso i manovali della corona impegnati a costruire una fabbrica. è solo l'innesco, l'incubazione, ma si comincia a parlare di nogomet, la parola che i croati usano per dire football. Come insegna la storia, sono gli inglesi a portare il calcio nel mondo e così avviene anche in Croazia, anche qui come in Uruguay o in Argentina, ad esempio, gli inglesi si trovano a sfidare autoctoni che poi magari sono più bravi di loro. Luka Modric è solo uno dei tanti talenti del calcio nati in Croazia, sicuramente uno dei più brillanti della sua generazione, quella dei giocatori nati a metà degli anni Ottanta. Ed ecco che entra in scena Josip Bajlo, di cui abbiamo parlato poco fa. Lui è il direttore sportivo della squadra di Zara e il primo a scoprire le qualità di Luka. Lo porta dall'albergo al campo di calcio, un luogo più adatto per sognare. Forse quando l'hanno saputo i proprietari dell'albergo avranno anche tirato un sospiro di sollievo pensando alle loro finestre. I genitori di Luka ci mettono un po' a convincersi e in Croazia non c'è giorno in cui gli allenamenti non vengano interrotti dal suono delle sirene che annunciano l'arrivo dell'ennesimo bombardamento. All'aria aperta non si può stare. E beh, essere stato un bambino della guerra ti rende un uomo diverso rispetto agli altri. Chi ha perso un genitore, un fratello, una sorella, chi ha dovuto lasciare la sua casa, chi ha visto l'orrore materializzarsi davanti ai suoi occhi porterà sempre dentro di sé queste ferite, lo sguardo impaurito di chi ha visto la morte, la distruzione, la violenza. Modric non lo perderà mai, neanche quando sarà una delle star del calcio mondiale. Bisogna leggere bene negli occhi delle persone, perché nella sua storia, come in quella di tanti altri cresciuti sotto le bombe, la guerra e il calcio sono due elementi strettamente legati tra di loro. Una guerra che, secondo molti, ha come inizio, non solo simbolico, la partita allo stadio Max Mirsk di Zagabria il 13 maggio 1990 tra Dinamo Zagabria e Stella Rossa Belgrado, quella delle tifoserie armate, i croati con le pietre, i serbi con l'acido, del famoso calcio di Boban a un poliziotto che sta arrestando un fan croato, degli elicotteri di Milosevic che vengono a prelevare i calciatori della Stella Rossa. È una forzatura solo parziale, dato che ancora una volta il legame reciproco calcio-società è profondo. Basti citare i tanti ultras croati poi finiti nelle milizie a combattere e morire. Molti di loro sono ricordati in monumenti come quello antistante lo stesso Max Mirsk. La Croazia è una delle prime nazioni della ormai ex Jugoslavia a ottenere l'indipendenza anche nel senso sportivo del termine. Tanti atleti croati in quegli anni scelgono di non indossare più la maglia blu della Jugoslavia, scelgono di vestire quella bianco-rossa a scacchi della Croazia. Tra i primi Dražen Petrović, Toni Kukoč nel basket, l'abbiamo raccontato Petrović, e poi nel calcio ci sono Boban, Šuker, Jarni, sono tre degli eroi di una storica spedizione, quella dei croati in Francia, Francia 98, diventeranno degli idoli, dei simboli della rinascita di un paese che si sta rialzando a fatica dalla guerra dei Balcani. Terzo posto alla prima partecipazione della Croazia è un vero e proprio miracolo sportivo, è stato realizzato grazie a dei giocatori straordinari uniti da qualcosa che va oltre il cameratismo calcistico, un senso di appartenenza, quello che era sempre mancato quando tutti vestivano la maglia della federazione jugoslava. L'allenatore Blažević ha raccontato in un'intervista che i suoi giocatori trascorrevano 24 ore su 24 insieme e non c'era nessuno che, non so, si isolasse per giocare alla PlayStation, una cosa pressoché impossibile al giorno d'oggi. Modric, e intanto il ragazzino Modric, come altri milioni di croati, non si perde neanche un minuto delle partite di quel mondiale, il mondiale francese, sogna un giorno di poter giocare anche lui per la Croazia. Nel frattempo continua a vestire la maglia dello Zara grazie a Josip Bajlo, l'uomo che lo ha scoperto e che dice del Modric ragazzino: pareva un miracolo già che stesse in piedi, però il tocco di palla era incredibile, sembrava che avesse occhi anche dietro la testa. È un giudizio che condiviso anche da Davorin Matosevic, il suo primo allenatore. Luka fu iscritto dal padre alla nostra scuola calcio. Era un bambino spaventatissimo, un profugo, ma presto ho notato che il tocco di palla era morbido, vellutatissimo e inspiegabilmente preciso, visto che non sapeva cosa fosse il calcio, o quasi. Ma era anche piccolo e debole, e sembrava non crescere mai. Non ero pertanto in grado di dire se quel fisico lo avrebbe sorretto nel diventare un grande calciatore. E Luca compensa con la tecnica quello che il fisico non gli ha dato, come succede a tutti i calciatori con i piedi buoni, ragazzi, io ne so qualcosa. Prende un sacco di botte e il padre Stipe non ha molti soldi per comprargli delle attrezzature adeguate, e fa di necessità virtù. Luca gioca per anni con un paio di scarpe recuperate dalla spazzatura, con dei parastinchi insoliti. Sono gli unici che suo padre può permettersi, non li compra, li costruisce lui stesso di legno, non saranno professionali, ma sono perfetti per proteggere le gambe esili di suo figlio. Per Luca però fa poca differenza, la cosa più importante per lui, bambino della guerra, è giocare a calcio, e lo fa anche coi parastinchi di legno. Il tecnico dello Zara, Basic, capisce fin dal primo allenamento che ha tra le mani un calciatore speciale, lo tratta come un figlio, lo tutela, lo cresce, quando arriva il momento giusto gli fa fare dei provini con i grandi club di Croazia. Il primo è con l'Hajduk Spalato, la squadra per la quale Luca fa il tifo, e però lo scartano, è troppo debole, troppo timido per diventare un vero calciatore, dicono. E poi arriva la chiamata della Dinamo Zagabria e qui si accorgono che dietro quel ragazzo magrolino c'è invece un calciatore speciale. E l'anno della svolta per Modric è il 2001. Firma con la Dinamo il suo primo contratto, la sua vita cambia per sempre, non tanto per i soldi, certo in quel momento contano i soldi, basta pensare che quando arriva a Zagabria non ha neanche un conto corrente bancario dove farli arrivare, ma lui è lì per diventare un calciatore, non per guadagnare soldi, vuole dimostrare a se stesso e a tutti quelli che gli stanno attorno che con il lavoro duro tutto è possibile. Inizia nelle giovanili, viene mandato in prestito prima in Bosnia e poi in un'altra squadra croata. Lui stesso in un'intervista racconta quelle esperienze che ritiene fondamentali per farlo diventare un calciatore professionista. Giocare in Bosnia e Erzegovina è difficile, nel senso che ovunque vai a giocare vieni visto con sospetto. Le trasferte erano durissime, sputi e insulti in ogni dove e soprattutto minor tutela da parte degli arbitri. Ogni tanto prendevo una pedata a palla lontana e se mi lamentavo con l'arbitro, spesso mi sentivo rispondere «Taci, feccia d'un croato!». Ad ogni modo, Mostar è bellissima e sarò sempre legato ai magnifici tifosi del club. Anche adesso ritengo questa esperienza uno dei più grandi successi della mia carriera. E le esperienze a Mostar e all'Inter Zaprešić, una squadra croata, sono un apprendistato fondamentale per fare diventare Luca un calciatore professionista, per guadagnarsi il ritorno alla casa madre, alla Dinamo Zagabria di Zdravko Mamić, il padre padrone del club più glorioso di Croazia. È un personaggio discusso, ne parleremo più avanti, perché avrà un ruolo importante nella storia di Luka Modric. Poi arriva l'esplosione definitiva, siamo nel 2005, lui ha 20 anni, è diventato titolare nella Dinamo, firma un contratto decennale con il club di Zagabria, gioca da trequartista alle spalle di Mario Mandzukic, è un ragazzone che farà molta strada anche lui. E Modric nel primo anno da titolare va in doppia cifra sia nella classifica dei gol realizzati ma anche degli assist serviti ai compagni. L'assist è una specialità per Buongustai. Lui e Mandzukic trascinano la squadra all'ennesima vittoria in campionato e poi sono messi in vetrina come i due diamanti grezzi, no? Del nuovo corso croato, e su Modric mettono gli occhi alcuni squadroni del calcio europeo, Manchester United, Barcellona, Arsenal, tante altre. Luca però è deciso a restare ancora qualche anno a Zagabria prima di fare il grande salto, sa che deve ancora crescere sia dal punto di vista personale che dal punto di vista fisico e non bisogna aspettare molto però per vederlo protagonista con la maglia di uno dei club più importanti d'Inghilterra. Nel 2008 il Tottenham paga 21 milioni di sterline alla Dinamo Zagabria per averlo. È un trasferimento record, da un lato proietta Luca, il bambino della guerra, ai piani alti del calcio e dall'altro lo coinvolge, diciamo, in uno sporco giro d'affari targato Zdravko Mamić, una storia che rischia di far andare in fumo una carriera molto promettente che getta ombre, che per fortuna spariranno, sull'immagine proprio di Luka Modric. Il falco. Il falco. Il falco. E il gabbiano. Il gabbiano. La storia di Luka Modric inizia come quella di tanti bambini che negli anni 90 sono stati costretti a vivere sulla propria pelle la tragedia della guerra nei Balcani. Luka nasce in Croazia, come tanti bambini ha una grande passione, il calcio, vive da profugo con la famiglia in un albergo a Zara e qui passa le giornate a tirare calci a un pallone. Viene scoperto il suo talento, è un ragazzino gracile, timido, impaurito, un figlio della guerra, ma riesce a entrare nella Dinamo Zagabria, che è la squadra più potente di tutto il calcio croato. 2 anni in prestito, il ritorno alla base, le vittorie, le big del calcio che bussano alla porta della Dinamo e alla fine la partenza per l'Inghilterra. 21 milioni di euro la cifra che paga il Tottenham Hotspur. E la prima stagione inglese non è indimenticabile. Lui sceglie la maglia numero 14, quella di uno dei suoi idoli, Johan Cruyff, che nell'Olanda del calcio totale vestiva il ruolo del genio, ne abbiamo parlato. Modric dovrebbe fare il faro in mezzo al campo, stare davanti alla difesa, ma ha problemi per l'ambientamento nel calcio inglese. Poi gli Spurs vivono una stagione travagliata, insomma Modric comincia a vedere più spesso la panchina del campo, fino al cambio di allenatore. Va via Juan de Ramos e arriva un mito del calcio inglese, si chiama Harry Redknapp, è uno specialista di squadre di media classifica soprattutto. Riesce a esaltare le doti di Luka. Con lui Modric fa il grande salto, viene acquistato dal Real Madrid per volere di José Mourinho. Vamos a Portugal 17, vamos que espera Cibeles, pierna derecha. Poi arriva Carletto Ancelotti, che porta a Madrid la 10ª Coppa dei Campioni della storia del Real. Avevano aspettata 13 anni quella Coppa, era diventata un'ossessione per il popolo blanco, gente abituata a vincere e a vincere spesso. Modric è alla sua seconda stagione, quella Coppa la vincerà giocando da titolare, maglia che lui ha dovuto conquistarsi con un lavoro duro, ma nella sua carriera ha sempre fatto così. Madrid l'estate precedente l'aveva acquistato dal Tottenham e i tifosi avevano pensato che quei soldi, 40 milioni di euro, fossero soldi buttati. Lui era rimasto in panchina e Mourinho alla fine gli aveva preferito Xavi Alonso, che dire, Ozil, insomma gente forte, fino a quella magica notte del 2013 all'Old Trafford di Manchester. Qui la storia di Luka al Real cambia per sempre. E puede descargar para Modric, Modric para Ramos, Ramos que se ha metido prácticamente con un atacante más. Ojo Luka, pícale Luka, le pega Modric, gol, gol, gol, gol. Anche i cronisti spagnoli, con questo gol Modric giustifica tutti i soldi spesi per averlo dal Tottenham, diventa da quel momento un insostituibile del Real Madrid, che poi sarà anche di Ancelotti e di Zidane. Il suo gol elimina lo United alla fine di una partita molto contestata, con un arbitraggio a senso unico per il Real Madrid, che insomma è una squadra che in Europa è sempre stata vista dagli arbitri con un occhio di riguardo, insomma succede, no? Comunque Alex Ferguson si arrabbia molto, quella sarà l'ultima sua partita in Champions League e il gol segnato da Modric in qualche modo segna la fine di un'era, quella di Ferguson, e dall'altra la consacrazione di lui, di Luka, come uno dei centrocampisti più forti d'Europa, il nuovo faro della Croazia, che ha bisogno di grandi giocatori perché stanno per arrivare i mondiali in Brasile. Modric arriva a Madrid nel momento giusto, vince la Champions del 2014, la 10ª, e poi con Zidane in panchina infila questa tripletta che difficilmente altri potranno ripetere, 3 coppe consecutive 2016, 2017 e 2018, che è l'anno più importante della carriera di Luka Modric, almeno fino a questo momento, perché dopo aver sollevato tirato la coppa dalle grandi orecchie nella notte di Kiev, c'è da andare a giocare il mondiale con la sua Croazia. Dietro alla spedizione russa però c'è l'ombra di uno scandalo pronto a sconvolgere tutto il calcio croato, con Modric nell'occhio del ciclone. La Croazia è un antimodello. Non ha strutture all'avanguardia che si possono paragonare alle academy del calcio inglese o tedesco. Non ha più le scuole dello sport che c'erano nell'est europeo della Guerra Fredda. Tutti i calciatori migliori giocano all'estero e il campionato nazionale è vinto sempre e comunque dalla Dinamo Zagabria, squadra dominante per motivi economici e per ragioni politiche, i cui vertici sono stati investiti dallo scandalo del padre padrone Zdravko Mamić, che è dovuto scappare in Bosnia per evitare, grazie al doppio passaporto, una condanna in contumacia a 6 anni di detenzione per reati di evasione fiscale, 12,2 milioni di euro, e appropriazione indebita, 15 milioni. Secondo gli inquirenti, Mamić faceva firmare contratti privati che gli garantivano il 50% dei trasferimenti futuri. Al centro, tra gli altri, anche i passaggi di Luka Modric al Tottenham e Dejan Lovren al Lione. Modric è stato interrogato e poi accusato di falsa testimonianza, ma la data del suo processo non è ancora stata fissata. E lo scandalo Mamić non è l'unico terremoto che scuote il calcio croato. La nazionale, per qualificarsi al mondiale, era dovuta passare dai play-off contro la Grecia. Un mese prima della sfida avevano cambiato l'allenatore. Il nuovo commissario tecnico Zlatko Dalic era uno che non aveva mai allenato a questi livelli, si era fermato agli Emirati Arabi. Però c'è un'alchimia, il gruppo si unisce nelle difficoltà, si esaltano i croati, riescono a trovare forze che nessuno pensava di avere. E la Croazia, tra l'altro, è in un girone niente male con Argentina, Nigeria e Islanda. Si qualificano, Modric con la fascia da capitano legata al braccio scende in campo e trascina i suoi verso il tentativo di emulare i suoi eroi, quelli di Francia 98, quelli che erano riusciti arrivare terzi, quelli che avevano ridato gioia e orgoglio al popolo croato che era stato ferito a morte dagli anni della guerra. Il falco, il falco, il falco e il gabbiano. Cammino della Croazia al Mondiale 2018 inizia bene, 2-0 alla Nigeria, e poi arriva il vero capolavoro, seconda partita contro l'Argentina di Messi. Qui Modric sale in cattedra, scopre le carte, la Croazia può diventare la sorpresa di questo Mondiale. Quindi Modric pensa anche al tiro, poi va col destro Modric, 2-0 Croazia a 600 secondi dal traguardo. A impreziosire una partita di grande costanza, di grande regolarità. Calmi tutti, fermi tutti, ma qui Dalic sente che il tempo è vicino. Messi sente che è tutto estremamente in salita. La vittoria contro l'Argentina accende i riflettori del mondo sulla Croazia e sui suoi talenti. Battuta la Danimarca ai rigori, si trovano di fronte i padroni di casa della Russia. Vincono, arrivano in semifinale contro l'Inghilterra. E il record del 98 è già eguagliato, ma Modric e compagni riescono addirittura a fare meglio dei loro idoli d'infanzia. Prima di Cilena, Uvaccia, il tuo ostra lotta, Walker reagira, tu e Perisic, Perisic, festa di un popolo. La Croazia, 20 anni dopo il terzo posto ai mondiali del 98, si gioca la Coppa del Mondo. Un paese che ha poco più di 4 milioni di abitanti, di cui almeno la metà era per le strade di Zagabria a festeggiare. In quel paese così piccolo si gioca la finale dei mondiali in Russia contro la Francia. Per Modric, l'ex bambino della guerra, il ragazzino fragile e impaurito, questa partita vale più di qualsiasi coppa o trofeo che ha sollevato e solleverà con Real Madrid. Vincere con la Croazia non è solo il suo sogno, è il sogno di un paese intero. Ferro che cerca riscatto e lui vuole essere il protagonista di quella meravigliosa favola. La concezione dello sport predominante nei Balcani precede doti principali quali la creatività, la fantasia, la capacità di creare qualcosa di inatteso, di strano magari, che però ha l'effetto di disorientare l'avversario e, se possibile, di farlo apparire semplicemente scemo. Il rugby è uno sport perfetto per la mentalità anglosassone, portato al gioco di squadra, dove ogni rotella è insignificante in sé, ma fondamentale per il corretto funzionamento di tutto l'ingranaggio. Un tipo di sport nobilissimo, ma che non accende in noi nessun tipo di passione. Come racconta Sergio Tarzar, la storica voce di Telecapodistria, la Croazia è tutto tranne che un paese razionale. Il suo exploit ai mondiali 2018 non è casuale. Alla fine perderà quella partita contro la Francia. Per i croati è comunque un successo, la gente che festeggia per le strade come se la Coppa l'avesse vinta lo stesso. Sono arrivati davanti a tutte le grandi corazzate del calcio mondiale, davanti al Brasile, all'Argentina, alla Germania, all'Inghilterra, non parliamo dell'Italia che neanche c'era a quei mondiali. E la generazione dei grandi giocatori, Rakitic, Perisic, Mandzukic, Brozovic, ma soprattutto del loro capitano Luka Modric, è una generazione che ha trionfato. Tutti i ragazzini cresciuti sotto le bombe, forgiati per lottare, insomma, il 2018 è un anno da incorniciare, come quello del protagonista della nostra storia, che raccoglie con gli interessi tutto quello che ha seminato nella carriera. And in this moment, in this particular moment, I would like to mention. E in questo momento particolare vorrei ringraziare il mio idolo di quando ero bambino, Zvonimir Boban, che è qui con noi, il capitano della Croazia del 1998. La squadra che alla prima partecipazione al mondiale è arrivata terza. Lui è stato la mia più grande ispirazione. E quello che ha fatto quella squadra ha dato la forza a tutti noi di fare qualcosa di grande in Russia. Spero tanto che anche noi potremo, un giorno, essere di ispirazione per le prossime generazioni di giovani croati, come loro lo sono stati per noi. Questo premio è la dimostrazione che con il duro lavoro, l'impegno e l'applicazione quotidiana, tutti i sogni possono diventare realtà. Modric nel 2018 vince la Champions League, arriva in finale ai mondiali e interrompe il duopolio Ronaldo-Messi perché vince il pallone d'oro e con le sue parole fa versare meravigliose e commoventi anche per noi lacrime a Boban, al suo idolo d'infanzia, al capitano di quella Croazia del 98. È un discorso quello che dice molto di Luka Modric. Lui quando ringrazia avvolge uno sguardo al passato, ringrazia per tutto quello che ha, perché sa che ogni cosa va guadagnata con il duro lavoro, con la capacità di reagire ai momenti terribili della vita, lo dice un ex bambino della guerra, insomma c'è da fidarsi. Ringrazia anche tutti i giocatori che, pur avendolo meritato, non hanno vinto il pallone d'oro. Insomma, fa un discorso di investitura veramente da gran signore. Questo e tanto altro ancora è e sarà Luka Modric. Se volete mandare dei commenti o segnalare altre vite su cui puntare il mio microfono, scrivete al Falco il Gabbiano @radio24.it, cercateci sui miei, sui nostri social, visitate la nostra pagina, insomma, se volete sapete dove sono. Ciao, a domani. Il Falco e il Gabbiano, un programma di Enrico Ruggeri. Testo di Fabio Donolato. Produzione a cura di Luigi Speciale e Anita Panizza.